Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani talenti, voci dalla nuova emigrazione. Piuttosto che restare in Italia per crollare, andate all'estero, ma poi tornate. Oggi apriamo la nostra puntata con le parole che il premio Nobel per la letteratura Dario Fo ha pronunciato di fronte agli studenti universitari di Perugia qualche giorno fa. Fo ha aggiunto di incontrare continuamente all'estero studenti e lavoratori italiani. È un vero disastro perdere questi cervelli, ha sottolineato prima di concludere. La responsabilità del potere è criminale, sta distruggendo un tessuto fondamentale della società. E oggi torniamo a parlare della difficoltà di avviare una carriera universitaria in Italia. Lo facciamo con la storia di una giovane abruzzese espatriata in Olanda, schivando baroni e protettori, concorsi decisi in anticipo e file chilometriche tipicamente italiane. La protagonista di oggi ha dimostrato che una carriera normale nel mondo accademico è possibile. Fuori dalla penisola, però. Puntata da non perdere per chi vuole assaporare un po' di meritocrazia nordica. E ricordate che è attiva Matching, la prima piattaforma online che unisce i giovani professionisti espatriati con quelli rimasti in Italia. Ma torniamo alla storia della settimana. La differenza è che non sono stata l'assistente del professore. Durante il periodo non facevi le fotocopie? No, questo senz'altro no. In realtà sono stata dottoranda, nel senso che è stato il mio progetto di ricerca. Non ho fatto ricerca per il professore, non ho scritto articoli che lui ha firmato, non sono andata a fare lezioni al suo posto e non sono andata, per esempio, ad accendere il termosifone a casa sua prima che lui tornasse da un convegno. Mariolina Eli Antonio, 32 anni, è assistant professor all'Università di Maastricht in Olanda. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. In apertura la settima puntata della nostra indagine sui numeri della nuova immigrazione, oggi una ricerca che riporta cifre impressionanti sull'esodo dei giovani professionisti, l'ha realizzata Confimprese, il segretario nazionale Marco Bosi. Più di 60.000 giovani, noi abbiamo considerato circa 65.000 giovani, ogni anno escono dall'Italia in cerca di lavoro, lavoro indubbiamente più qualificato in virtù anche dei loro studi e delle loro lauree, per cercare appunto in altri paesi, in particolare Spagna, Francia, Germania e Stati Uniti, diverso lavoro. Un lavoro che in qualche modo risponda di più alle loro caratteristiche. Quando parla di giovani, a quale fascia d'età si riferisce? Mi riferisco all'età dai 25 ai 35 anni. Sapete qualcosa di più? Se sono laureati, se sono invece diplomati? Il rapporto è 70% laureati, 30% diplomati oppure non laureati, ecco, definiamoli così. Diciamo che indubbiamente abbiamo un tasso, come dire, di non successo che va intorno al 35-40%. Però il tasso di successo invece è abbastanza elevato, soprattutto per quanto riguarda negli Stati Uniti. E il tipo di lauree o professioni? Molte sono in economia e commercio, giurisprudenza, però soprattutto per alcuni settori della giurisprudenza, e la stragrande maggioranza invece sono lauree tecniche. Ingegneria, intendo dire biologia, intendo dire chimica. In libreria La generazione tradita, l'ultimo libro del direttore generale della LUISS Pierluigi Celli, autore della nota Lettera al figlio di un anno fa in cui invitava all'espatrio. Sentiamo Celli. Io più che denunciare ho cercato di recuperare una dimensione diversa rispetto alla lettera. La lettera è certamente una denuncia e anche provocatoria per cercare di far parlare di un problema, di un tema che sembrava non interessasse nessuno prima. Adesso il tema è diventato all'onore del mondo, quindi a quel punto io credo che non occorre più denunciare, occorre cercare di capire le cause per cui le cose vanno in un certo modo e vedere se ci sono gli strumenti per farle andare in maniera diversa. E quali potrebbero essere questi strumenti? Io credo che il primo strumento è che gli adulti si devono far carico dei giovani lasciando gli spazi e mettendosi accanto. Utilizzare anche l'università in funzione formativa e non solo di istruzione. Terzo, bisogna insegnare ai giovani a fare impresa. Sempre meno giovani alla guida delle aziende italiane, negli ultimi 5 anni l'imprenditoria giovanile, il 6% del totale, ha visto una diminuzione di oltre il 17%, lo denunciano i giovani imprenditori di Confapi. Secondo la stessa ricerca sono 1.150.000 gli under 34 senza lavoro in Italia. Il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini ha firmato il decreto che finanzia i 31 progetti di ricerca previsti dal programma Rita Levi Montalcini. Il progetto stanzia 6 milioni di euro per attivare contratti triennali. L'obiettivo è favorire l'internazionalizzazione dei nostri atenei e offrire ai giovani ricercatori all'estero l'opportunità di svolgere ricerca in Italia. Il sistema della ricerca italiano richiede un cambio di rotta radicale e occorre creare una circolazione dei cervelli e una rete di centri autonomi. Lo sostiene Antonio Iavarone, da 10 anni al Columbia University Medical Center di New York, dopo essere espatriato in seguito a un episodio di nepotismo. Ha vinto il premio Young Scientist Award 2010, riconoscimento della International Union for Pure and Applied Physics, per valorizzare la ricerca di giovani ricercatori nel campo della fisica statistica. È italiano, ha 36 anni, si chiama Davide Marenduzzo e lavora all'Università di Edimburgo. Lo abbiamo intervistato. Io sono venuto all'estero un po' per caso e poi siamo stati qui perché ho preso posizioni sempre più a lungo termine. Non è che io abbia avuto tutte queste offerte all'Italia e ci abbia pensato tanto. Vedendola da fuori non è che sia troppo attractive per me al momento. È un po' più ristagnante l'ambiente, diciamo, questa è l'impressione che hai da fuori. Qui è molto più dinamico il mondo della ricerca. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un direttore al Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale di Salonicco in Grecia, scadenza per il CV 7 gennaio, info su cedefop.europa.eu. Un economista ambientale alla Risk and Policy Analyst Limited di Norfolk in Gran Bretagna, scadenza per il CV 30 novembre, info su rpaltd.co.uk. E infine un ricercatore scientifico junior all'Università di Ghent in Belgio, lavorerà su progetti di ricerca medica, scadenza per il CV 29 novembre, info su ughent.be. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta in Olanda, in una delle più note città universitarie dei Paesi Bassi. Nome: Mariolina. Cognome: Eli Antonio. Età: 32. Città di origine: Pescara. Studi: giurisprudenza. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2003. Per andare dove? Maastricht, Paesi Bassi. Perché? Per andare a fare un dottorato. Quale lavoro svolge attualmente? Assistant professor in diritto amministrativo europeo e direttore di un corso di laurea triennale. Dove? Maastricht. Tornerai? Non credo che tornerò. Do you think you're Gli olandesi di Alice DJ, Better Off Alone. Nel tuo caso, Mariolina, potremmo tradurre un po' più liberamente: fuori dal giro. In Italia un lavoro come il mio attuale non lo troverei, scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Non lo troverei in primis perché sono fuori dal giro e andare a fare un concorso senza un protettore sappiamo che è una battaglia contro i mulini a vento, e un concorso con un protettore e con me quale vincitore in pectore io non lo voglio proprio fare, perché voglio vincere se sono la migliore, non se qualcuno ha deciso che quel posto è per me. Better off alone, Mariolina, off, lontana da un paese dove le regole sembrano fatte apposta per essere calpestate. Ti ritieni fortunata a non lavorare in Italia? Mi ritengo fortunata ad avere un lavoro che amo come se amo un amante. Io lo desidero, mi ci irrito qualche volta e dopo forse troppo poco mi manca. E mi ritengo fortunata ad averlo conquistato per i miei meriti e le mie capacità. Ottimo. Iniziamo dal tuo percorso di studi, Mariolina. Un percorso particolare poiché tu, grazie anche alla lungimiranza dei tuoi genitori, vieni iscritta all'unica scuola di inglese pomeridiana della tua città, Pescara. A 16 anni impari anche il tedesco. Mi fermo qui perché vorrei subito toccare una nota dolente del nostro sistema formativo. Secondo te i giovani italiani studiano a sufficienza le lingue? Decisamente no. Al classico, cioè la scuola che io ho frequentato, anche quando l'inglese viene studiato per tutti e 5 gli anni, lo si fa in realtà in modo molto teorico. Impariamo chi è Geoffrey Chaucer e quali sono le differenze con la poetica del Boccaccio, ma non sappiamo e non impariamo a chiacchierare per esempio di politica in inglese. Della seconda lingua straniera non ne parliamo proprio. E le lingue invece servono se vogliamo affermarci in un contesto globalizzato, no? Mi sembra decisamente giusto. Savastandier, all'università ti iscrivi a giurisprudenza, perché questa scelta è quale giudizio dai di quella esperienza a distanza di anni? Una scelta un po' perché, e lo confesso, non sapevo bene cosa fare, e un po' perché i miei genitori pensavano che fosse una buona idea. Ad oggi non penso di essere pentita di questa scelta, ma in realtà credo che sia soprattutto perché con il passare degli anni ho trovato la mia strada. Ti laurei poi col massimo dei voti dopo aver passato tutte le estati universitarie a fare corsi di lingua. Non solo, hai studiato 7 mesi in Erasmus in Germania, quando, tu ricordi, internet muoveva i primi passi, le università non avevano ancora i siti web e la Ryanair era una piccola compagnia. Sembra ancora preistoria. E poi cosa succede ottenuta la laurea? Era già prima della laurea, durante l'ultimo anno di università, in realtà, che avevo deciso che sarei andata all'estero per un master, perché volevo frequentare un master in inglese, in un ambiente internazionale, e mi interessava il diritto europeo. E così ho fatto varie domande, sono stata presa in varie università e poi alla fine ho scelto Maastricht perché era quella che offriva il master che mi interessava di più. Mariolina, spiegaci, com'è stato l'impatto? Prima ancora che con il master con la città di Maastricht, raccontaci com'è stato approdare a 23 anni in Olanda, un paese piccolo, con una lingua, diciamolo, ostica, ma comunque dalla forte multiculturalità. È stato facile integrarsi? Direi decisamente sì, nel senso che l'Olanda è un paese dove è molto semplice in realtà essere uno straniero. Tutti quanti parlano inglese, dai molto giovani ai molto anziani. Mi ricorda l'Italia? Sì, decisamente, proprio uguale. E le pratiche burocratiche in realtà sono state veramente minime e soprattutto molto semplici da sbrigare. E inoltre il mio master era frequentato da molti stranieri, quindi l'integrazione nella vita di Maastricht è stata molto facile. Tu definisci il master in diritto europeo una delle scelte migliori della mia vita. Finalmente, dici, mi è stato insegnato a pensare, scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Spiegaci allora qual è stata questa rivoluzione copernicana, come la definisci tu, provocata dal master olandese. Per la prima volta a Maastricht mi è stato insegnato non solo a studiare il diritto, ma ad applicarlo. Primo giorno, prima lezione, arrivo nell'università, apro il libro, primo esercizio. Una coppia, lui danese, lei italiana, sono in vacanza in Francia. Un tedesco, anche lui in vacanza nella stessa città in Francia, non si ferma al semaforo e urta contro la macchina della coppia. Domanda: quale legge si applica e qual è il foro competente? Io, laureata con 110 lode, 3 anni e una sessione, non avevo idea da dove cominciare. Non te l'avevano spiegato, probabilmente. Non c'era stato mai insegnato ad applicare il diritto, c'era stato insegnato a imparare il diritto. E inoltre poi a Maastricht mi è stato insegnato anche a discutere di diritto e non solo ad accettare le opinioni altrui un po' passivamente. Io invito veramente a prendere queste parole e scolpirle nella pietra, perché questa è probabilmente la vera rivoluzione, il far pensare gli studenti, non vendere verità predefinite, come spesso, troppo spesso avviene nell'università italiana, ma abituarli a pensare e discutere assieme. Questo è il vero salto che c'è all'estero e non sei la sola a dirlo. Mariolina, nel tuo percorso di carriera c'è a un certo punto anche il rientro in Italia. Volevi, in un certo senso, dovevi fare pratica legale per diventare avvocato. E la prima domanda è stato facile ottenerla nel tuo caso a Milano? Per me, devo confessare, è stato abbastanza facile, però gli studi a Milano, bisogna essere onesti, sono molto competitivi. Bisogna avere voti alti e anche ottima conoscenza dell'inglese. E perché poi, dopo pochi mesi, invece lasci Milano? C'entravano forse le condizioni di lavoro, le prospettive di carriera, o semplicemente hai compreso che quella non era la tua strada? È stato un insieme di fattori, direi, nel senso che senz'altro non mi appassionava il contenuto, quello che facevo giornalmente, cioè il diritto societario. Ma quello che in realtà mi ha portato a cercare altro e tornare poi all'università per fare il dottorato è stato il desiderio di fare qualcosa di utile per la società, cioè di fare qualcosa che avesse un risvolto etico. Allo studio dove lavoravo sentivo che con il mio lavoro in realtà contribuivo a rendere i ricchi più ricchi e i poveri più poveri. E a proposito di ricchi e poveri, che idea ti sei fatta in quei pochi mesi delle condizioni in cui lavorano i giovani praticanti avvocati in Italia? Credo che la mia esperienza non sia stata rappresentativa della condizione dei praticanti in Italia. Io lavoravo tanto, ma venivo pagata anche bene e mi davano anche incarichi di responsabilità. Era una multinazionale, però, ricordiamo. Era uno studio di affari di Milano, sì, uno studio corporate di Milano. Però dall'esperienza delle mie amiche, molte, che hanno fatto pratica a Pescara, so che questa è senz'altro l'esperienza di una mosca bianca. A quel punto riprendi i contatti con Maastricht e ti candidi a una procedura di selezione con un colloquio che, per come era strutturato, poteva benissimo essere aziendale. Raccontacelo bene. È stata una procedura basata dapprima sull'invio di un curriculum e di un progetto di ricerca, quindi ho dovuto pensare ad un progetto del mio dottorato che avrei svolto nei 4 anni seguenti. Poi sono stata chiamata per un colloquio che si è svolto di fronte al cosiddetto comitato scientifico dell'università, cioè un gruppo di 8 professori delle varie discipline che gestiscono la procedura di selezione di volta in volta dei dottorandi. Passi questo esame, diventi dottoranda, inizi il tuo periodo di dottorato a Maastricht sull'influenza della giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia sulla procedura amministrativa di Italia, Inghilterra e Germania. Tu ci scrivi: ho fatto la dottoranda, ho portato avanti un progetto di ricerca tutto mio. Spiegaci allora qual è questa differenza con l'Italia. La differenza è che non sono stata l'assistente del professore. In realtà sono stata dottoranda e sembra un po' una tautologia, ma visto come vanno le cose in Italia forse occorre spiegare. Nel senso che è stato il mio progetto di ricerca, non ho fatto ricerca per il professore, non ho scritto articoli che lui ha firmato, non sono andata a fare lezione al suo posto e non sono andata, per esempio, per accendere il termosifone a casa sua prima che lui tornasse da un convegno. E non scherzo, mi è stato detto che a Teramo succedono anche queste cose. Ah, benissimo, ottimo. Concluso il dottorato, ti viene offerto di partecipare alla selezione promosso da assistant professor. Ancora una volta ad aspettarti c'era un metodo di selezione scientifico. Stata selezionata di nuovo in base ad un colloquio, in base alla mia performance come dottoranda e in base alla mia performance come insegnante, che viene monitorata motivata dalle valutazioni fatte di volta in volta dagli studenti che seguono il tuo corso. Da un anno sei pure direttore, sei stata nominata a soli 31 anni, di un corso di laurea triennale alla European Law School. Alla tua età, un incarico del genere sarebbe stato mai immaginabile in Italia? Sono sostanzialmente la faccia del corso di laurea, per così dire. Controllo che tutto vada bene, che il livello di insegnamento sia quello adeguato, che ci sia coerenza tra i corsi, e poi per il resto del tempo faccio ricerca e insegno. E se una carriera così sarebbe stata immaginabile, io dico di no, però lancio qui una sfida a mandare un'email a Sergio Nava per dimostrare che mi sbaglio. E ovviamente se si hanno parenti, fidanzati, amanti, eccetera, nell'università dove si lavora, non vale. L'email è giovanitalenti@radio24.it e raccogliamo la sfida. Mariolina, domanda diritto: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Io la vedo come un paese stanco e sfiduciato. Vedo nei giovani della mia età poca speranza, poco entusiasmo e troppa poca voglia di cambiare le cose. E per questo anche che sono stata molto felice di conoscere i ragazzi dell'Arena, la Rete per l'Eccellenza Nazionale, che è un'associazione di cui io faccio parte, che ha come scopo quello di contribuire a fare dell'Italia un paese più aperto, responsabile, trasparente ed equilibrato. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Mariolina Eliantonio, 32 anni, assistant professor all'Università di Maastricht, la più internazionale d'Olanda con i suoi 14.500 studenti. Mariolina vi è giunta dopo una laurea in giurisprudenza a Teramo, un master proprio a Maastricht, un tentativo poi abbandonato di pratica legale a Milano e un dottorato nuovamente in Olanda, da cui ha preso il via la sua carriera universitaria. Sede in Europa, focalizzati sul mondo, questo il motto dell'Università di Maastricht. Ci raggiunge ora in linea Roberto Caranta, professore ordinario di diritto amministrativo alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Professore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Lei conosce Mariolina e la sua storia da tempo. Non sembra, sentendola parlare, di ascoltare una marziana. È così difficile importare questi sistemi in Italia? Non è banale, anche perché direi è soprattutto il paese che è diverso. L'eccellenza di certi sistemi universitari si basa su sistemi economici che sono competitivi, concorrenziali. L'Italia non lo è. Lei tra l'altro ha esperienze di insegnamento in università straniere, ma non si riesce a importare un po' di questi germi di meritocrazia, se vogliamo? Secondo me sarebbe possibile, ma bisognerebbe davvero avere una forte volontà politica ed essere pronti ad affrontare delle proteste di interessi consolidati che sicuramente non saranno contenti di mutamenti allo status quo. Andiamo proprio a questo status quo, andiamolo ad analizzare. L'Italia ha la quota più bassa di docenti con meno di 40 anni di tutti i 27 paesi europei, meno del 16%. In Francia e Spagna la percentuale di docenti giovani è esattamente doppia della nostra, ma perfino in Bulgaria, Belgio e Portogallo gli under 40 sono nettamente più rappresentati che da noi. Su 10 docenti attivi in Italia, quasi 6 hanno più di 50 anni, un record assoluto. E per questo le chiedo che le nostre università soffrono così tanto, tagli ovviamente a parte. Secondo me il problema dell'età è grave, ma bisogna contestualizzarlo, cioè è il portato di scelte, diciamo, assolutamente sbagliate sul piano del reclutamento. E a questo proposito le leggo un passaggio della lettera che l'Associazione Italiana per la Ricerca ha inviato pochi giorni fa a 3 ministri. Scrivono: tutti voi conoscete il fenomeno della fuga dei cervelli. Le motivazioni di questo esodo risiedono nella mancanza di meritocrazia del sistema accademico italiano, che rende estremamente difficile a molti giovani capaci e preparati di accedere ai ruoli docenti dell'università. In particolare, l'eccessiva discrezionalità ad oggi presente nei criteri di valutazione dei concorsi universitari, che premia più la fedeltà al docente di riferimento e l'anzianità di servizio, piuttosto che le reali capacità professionali o l'autonomia di pensiero. Ma è così difficile giocare con regole olandesi? È quasi impossibile, perché in Olanda, nel Regno Unito, ogni università è in concorrenza con le altre per sfornare il prodotto migliore che poi sarà ricercato. Mariolina parlava di studi di grandi dimensioni, di imprese di grandi dimensioni. In Italia non è così, perché è chiaro che il piccolo studio assumerà non in base al merito, ma in base alla conoscenza, al network. La piccola impresa farà lo stesso. Quindi non è così facile imporre la meritocrazia. Questo è il principale problema strutturale dell'università italiana o ce ne sono altri? No, direi questo è senz'altro il principale problema, aggravato

incontri con professionisti di spicco italiani. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.pboston.org. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. Oggi vi proponiamo un estratto della lettera che ci ha inviato Roberto e che potete leggere integralmente sul blog di Giovani Talenti. Roberto è un giovane ingegnere ambientale con esperienze di alto profilo prima a New York, poi con l'ONU in Sud America. Da gennaio è rientrato in Italia per contribuire al progresso del suo paese. È ancora disoccupato. Roberto conclude così la sua lettera. Andarmene sarebbe una grandissima sconfitta per me e per il mio paese, che ha investito per la mia formazione durante i migliori anni della mia vita. Per quale motivo dovrei utilizzare le conoscenze fornitemi dal mio paese in un altro? La cosa che mi ha colpito di più è stata però l'atteggiamento delle persone che avevo intorno, i quali, di fronte alla mia indignazione, rispondevano allargando le braccia: «Beh, ma sei in Italia!» Come se questa fosse una scusante o un alibi per giustificare il fatto che le cose non funzionano. Se queste persone sui 30 anni accettano di buon grado la situazione, senza interrogarsi sul perché le persone se ne vanno, nulla potrà mai cambiare. Se i trentenni di oggi non sono capaci di ribellarsi, chi lo farà per loro? Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Quale ricetta proponete per evitare la fuga dei cervelli, ricercatori o professori, dall'università italiana? Servono più risorse pubbliche? Oppure occorre mettere da parte baroni e ultrasettantenni? O ancora entrambe le cose? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E potete pure interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva Matching, la prima piattaforma online per avviare partnership tra i giovani professionisti residenti all'estero e i coetanei rimasti in Italia. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.